siamo insieme l'alfa e l'omega nella vita segreta che c'è in ogni città. Vista qua dall'alto la città, dai fatto io ne capto il canto, nana. Voglio starti accanto, forse basta un salto che in un attimo mi trasformerà. Poi in mezzo ai passanti ti seguirò sceso davvero per portarti su su. Davanti ai comandi del cielo non posso, dicevo, non vederlo. Non sono come tanti, non ho spazio nel luogo, non ho tanto nel logo. Io non vengo mai in foto, io non sanguino, non piango e non mi brucio col fuoco. Io non amo e non odio, ma non vale per te. Com'è? Sullo sfondo della città, noi col mondo messo in stand by. Ora stiamo dentro un'alba di vetro, dentro il velo di seta che c'è in ogni realtà. Dai, fuori a folle velocità, le forme dello skyline. Poi vediamo insieme l'alfa e l'omega nella vita segreta che c'è in ogni cinetta. Ore pallido d'amore quando scappi ancora fra le luci nel buio. Alzo la mia voce, chiamo qua il tuo nome che rimbalza ore tra sti muri di tufo. E noi veniamo dagli estremi di due poli diversi, da due popoli inversi, qui ci siamo scoperti. La distanza fra impossibile e invisibile ai sensi, che poi in fondo se ci pensi è una gigante bugia. Figli di due mondi opposti, cosa ci siamo persi? C'è gli opposti contrari, c'è dai nostri richiami. Nel riflesso nei tuoi occhi c'è quest'angelo a pezzi. Ho tagliato le mie ali per restare con te. Com'è? C'è un'altra città che ora appare da fondo. Forse convive con quella in cui sei. Mi troverai oltre i confini del mondo, anche se in fondo un confine non c'è. Sullo sfondo della città, noi col mondo messo in stand by. Di vetro, dietro il velo di seta che c'è in ogni realtà. Dai, fuori a folle velocità, tra le forme dello skyline. Poi vediamo insieme l'alfa e l'omega nella vita segreta che c'è in ogni città. C'è un'altra città che ora appare da fondo. Forse convive con quella in cui sei. La città degli angeli, Murubutu. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa prima puntata sul rap militante. Direi che ve ne potete aspettare almeno un'altra da qui alla fine di questa stagione. Noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo,